Amo, viviamo nell'etica, dici che la bellezza infiora e là fuggevo, fuggevo, ora si levi a poco un po'. Liviane i dolci freniti che sono usciti all'amore, poiché quello che ho al cuore ogni possente va. Misterioso Thank you. Oh! bollenti spiriti. Il giovane ardore e la dentro col facile sorriso dell'amor, dal dice di sé. Oh,

Thank you. Thank you.

天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。